Conoscerete tutti e non soltanto perché io ve l'ho citato almeno un paio di volte, quel vieto apologo giornalistico, quello in base al quale se un cane morde un uomo la notizia non è degna di essere pubblicata, mentre se un uomo morde un cane ovviamente sì. È un apologo di età venerabile che probabilmente si raccontava già nelle redazioni del Paleolitico Superiore ed esprime un tipico luogo comune della professionalità giornalistica, un luogo comune che peraltro, come capita spesso, contiene una non disprezzabile dose di verità e di capacità normativa, il che spiega il suo prolungato successo attraverso i tempi. D'altra parte, anche le norme più accreditate ammettono le loro brave eccezioni. Per esempio, è ovvio che se azzannare il povero cane di passaggio fosse stato un uomo universalmente noto per le proprie tendenze mordaci, diciamo un maniaco della mozzicata a qualsiasi costo, il discorso sarebbe diverso. E se a mordere il ragazzino che giocava a pallone nel vicolo o il portalettere appena sceso dalla bicicletta fosse stato un vecchio mitissimo cane sdentato, conosciuto in tutto il quartiere per la paciosità dei suoi comportamenti e l'assoluta indifferenza nei confronti di ragazzini e portalettere, ci sarebbe materia perlomeno per uno strillo in prima pagina. Così non dovremmo biasimare troppo il titolista delle pagine milanesi di Repubblica se una decina di giorni fa, il 28 dicembre, scusate il ritardo, se una decina di giorni fa ha sormontato un'intera pagina con un iperbolico "l'opposizione si oppone". Perché è vero, l'opposizione dovrebbe opporsi per definizione a qualsiasi ipotesi che il governo proponga, se no che razza d'opposizione sarebbe, e quindi quel titolo esprime una di quelle ovvietà che non dovrebbero né avere neanche il diritto di essere pubblicate su un giornale serio, ma voi lo sapete, ci sono governi e governi e opposizioni. A Milano a livello comunale siamo caratterizzati da un governo, il sindaco e la sua giunta, che governa pochissimo. Nel senso che non combina un accidente di niente, ma si limita ad annunciare l'intenzione di fare questo e quest'altro, suscitando misteriosamente il plauso della maggioranza dei cittadini e guadagnandosi una fama di capacità ed efficienza assolutamente non meritate. Ed è un'opposizione, appunto, che invece di azzannare puntualmente il pavone Albertini e quegli inetti dei suoi assessori, e invece di rinfacciargli ogni promessa non mantenuta, di inchiodarvi a ogni risultato mancato, di demistificarne ogni piesso spinto le futili pretese, si limita a scodinzolare come un buon cagnone che, privo delle unghie e dei denti, non può fare stare altro che stare sdraiato al sole, ed è già tanto se riesce a tenere lontane le mosche. Sì che se veramente questa spellacchiata disomogenea congrega avesse deciso di fare il suo mestiere, come risulterebbe dal sommario che accompagna quel titolo, dal centro-sinistra sfida d'Albertini, ci vorrebbe un titolo di almeno due pagine affiancate. Poi naturalmente uno legge l'articolo e scopre che non è vero niente, che nessuno s'oppone e nessuno sfida nessun altro. I democratici di sinistra, i popolari, Rifondazione, il Partito dei Comunisti Italiani, Italia Democratica, Italia dei Valori, i Cristiano Sociali, l'Arci, le Acli, Lega Ambiente, il CIR, che sa diavolo che cos'è, l'Auser, idem come sopra, l'UDS, boh, e i Verdi, su iniziativa della Camera del Lavoro di Milano, cosa hanno fatto di bello? Si sono riuniti costituendo un bel tavolo di confronto. E con quale fine? Citazione: per preparare una bozza di documento che verrà presentata con una grande iniziativa pubblica alla fine di gennaio. Un documento che inaugura una nuova sfida, definire uno sviluppo equilibrato e qualificato, ricreare condizioni per una migliore qualità della vita, rilanciare un'occupazione qualificata, eccetera, eccetera, contro il degrado urbano, per una maggiore flessibilità del tessuto produttivo, per nuove strutture di aggregazione e socialità, per il recupero degli alloggi sfitti e la creazione di nuove unità abitative. Sono tutte cose degne e giuste, ma è anche tutta via fritta, nel senso che vorrei ben vedere chi osasse preparare una bozza di documento che proponga uno sviluppo disequilibrato e non qualificato, che chieda una peggiore qualità della vita, che auspica un rilancio della disoccupazione, favorisca il degrado urbano, chieda una maggiore rigidità alle industrie, una maggiore disaggregazione sociale e una drastica diminuzione delle unità abitative. In politica, a indicare degli obiettivi ovvi siamo bravi tutti. Il problema è quello delle strategie, delle candidature, delle alleanze sociali attraverso cui realizzarne almeno qualcuno. E siccome del problema delle strategie, delle alleanze, delle persone cui affidarsi, a sinistra non si occupa mai nessuno, sembra, Vedrete che tra un paio d'anni, quando si tratterà di tornare a votare, la sinistra milanese disporrà di un bellissimo programma, più bello ancora di quello di cui era tanto orgoglioso il povero Fumagalli, senza la minima idea di come trasformarlo in azione politica, col risultato che come candidato ci presenteranno il solito industrialotto viziato o il solito democristiano riciclato, e Albertini sarà rieletto al primo turno con una maggioranza oceanica, e sarà un esito tanto ovvio da non meritare altro che un trafiletto in cronaca locale. Hier soir j'ai flashé sur la brume, hier soir j'ai navigué dans la brume, on est allé sur les quais.